dimorando in questa vita. Noi giocavamo insieme, era solo libertà. Lo sai, l'ho sempre rispettato, è la pura verità. Salvato con un gesto improvvisato, restandone un po' fuori, certe cose non si sanno. Ma ha preso per la gola anche il coraggio, si è sfumato. Ti dono una canzone, quella che non hai cantato. Ma tu non ti guardi mai di questa vita. Lo sai, scappavamo insieme, era solo libertà. Ma sì, eravamo uguali, è la pura verità. Sai cos'è? Ma tu che idea ti sei fatto di questa vita? Ma tu che idea ti sei fatto di questa vita?